A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Roma, buonasera, qui è India Hotel 870, 115 miglia per Papa Alfa, per Papa Romeo Sierra, scusate, mantiene 250. È ricevuto India Hotel 870, Itavia. Attenzione, prego. Si informa che il volo Italia IH870 proveniente da Bologna è segnalato con ulteriore ritardo. Ma com'è sto fatto? Il volo IH870 da Bologna è segnalato con ulteriore ritardo. È rappresentato un passo definitivo, direi, verso la verità, nel senso che questa è una sentenza della Cassazione in ambito civile, ma non ha fatto altro che ribadire la sentenza ordinanza del giudice priore, che disse già nel 1999 che il DC-9 era stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea. E infatti fu un missile. 33 anni dopo è la giustizia civile al suo massimo livello ad arrivare laddove i processi penali non sono invece mai giunti ed inchiodare, cioè alle sue responsabilità, lo Stato, condannato ora a risarcire i passeggeri del DC-9 per l'abbattimento nei mari di Ustica del volo Bologna-Palermo con 81 passeggeri. Era il 27 giugno del 1980. Da allora, anni di depistaggi, di silenzi, di muri di gomma e di processi ribaltati hanno coperto i segreti inconfessabili nascosti tra le nuvole del cielo sopra Ustica. Quando l'aereo dell'Itavia si trovò in uno scenario di guerra, come scrisse il giudice Rosario Priore, colpito forse al posto di un MiG libico con Mohammed Gheddafi a bordo. Molte cose sono cambiate da allora. Gheddafi è stato ucciso, la situazione internazionale è molto lontana da quel clima di tensione di 33 anni fa e ora dunque anche questa sentenza porta i familiari delle vittime di Ustica, guidati da Daria Bonfietti, a chiedere di nuovo, con forza, che lo Stato ora le cerchi davvero quelle risposte inconfessabili da loro da sempre reclamate, invece di spendere energie e soldi e l'amaro sfogo, dando mandato all'Avvocatura dello Stato per contrastare le richieste di chi su quel DC-9 aveva figli, mariti e amici. Non ho mai pensato che fosse un incidente, capivo, sentivo che questa mancanza di notizie, questa mancanza di informazioni, questa mancanza di verità non poteva che essere sintomo di una verità indicibile. Credetti al cedimento strutturale. È brutto andare a letto ancora oggi dopo tanti anni e non sapere come e perché è morta tua figlia. Se a me rimane questo dolore, rimane tra le mie quattro mura e nel mio cuore, non interessa a nessuno. Sono tanti i morti per tragedie, ma io ai miei figli, ai miei nipoti, devo dire, siete cittadini italiani e come cittadini italiani avete dei doveri, ma avete dei diritti che dovete reclamare. Il diritto di sapere, il dovere di chiedere. Sono in paesi amici come la Francia o comunque alleati come la Libia quelle risposte che i familiari delle vittime di Ustica da 33 anni aspettano e che ora che una sentenza della Cassazione civile apre un nuovo varco, reclamano con ancor più forza al futuro governo. È determinata Daria Bonfietti. Avendo avuto la forza questi giudici del civile, primo grado, secondo grado e ora anche la Cassazione, di leggere correttamente le 5.400 pagine di quella sentenza ordinanza e ritenendole valide, non hanno potuto che concludere, siccome è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, cioè da un missile, il DC-9 dell'Italia, dico che i ministeri dei trasporti e della difesa devono risarcire i parenti. Questa è una grande verità. Dico solo che si deve andare avanti, ce ne sono molte altre aperte nei vari tribunali, specialmente in Sicilia, parenti delle vittime che sono partiti appunto chiedendo risarcimenti per il danno provocato per la mancanza di verità. Andranno, io credo, proprio anche alla luce di questa sentenza, nella stessa direzione. Il governo del mio paese, che induce, ha indotto in questi anni le varie avvocature dello Stato a presentarsi contro i procedimenti che aprivano i poveri, i parenti, le vittime, potevano spendere quelle forze, quelle energie per mandare la propria diplomazia nei paesi amici ed alleati che quella notte erano nei nostri cieli e hanno abbattuto stato il 19 dell'Itavia. Sarebbe stato mostrato un livello di dignità nazionale maggiore, cosa che il governo del mio paese ben poche volte ha saputo in questi 33 anni fare. Soltanto in un attimo il governo Prodi Veltroni ha permesso al giudice priore di andare alla NATO per farsi decrittare dei tribunali che i nostri militari non ci decrittavano. Quella è stata la svolta, perché da lì il giudice priore ha concluso dicendo che era stato all'interno di un episodio di guerra aerea. Lei ha fatto una sintesi di questi 33 anni che, come dicevamo, sono stati 33 anni di silenzi, di misteri, di depistaggi, di ostacoli. Voi, con in mano questa sentenza importante della Cassazione, in questo momento come intendete procedere? Quelli di quali stiamo parlando sono soltanto tre parenti, non gli 81, che 81 poi sono i morti, non i parenti. Ci saranno altre procedure civili. Io dico solo che è il caso, come dicevo prima, che l'Avvocatura dello Stato smetta di andare contro nei processi alle richieste dei parenti delle vittime, perché ormai appunto c'è una sentenza che dice: guarda, è proprio vero, è stato abbattuto da un missile e quindi dovete pagare. Ci manca i responsabili, coloro che hanno abbattuto il 19. Il mio governo vada con forza, con determinazione, con la voglia di farsi rispondere dai paesi i cui aerei quella notte erano lì. Hanno abbattuto per sbaglio, per errore, tutto quello che vuole, ma hanno abbattuto un aereo con 81 cittadini italiani. Lo ha detto Cossiga dal 2007 in poi, sono stati i francesi, voi sarete bravi. Ebbene, andiamo in Francia e chiediamo risposte. Indagini anche a livello penale sono state riaperte, ma alle rogatorie fatte dai nostri magistrati alla Francia, all'America e a tutti gli altri paesi che vedevano le loro presenze in quella notte non hanno risposto. Rispetto a 33 anni fa, fortunatamente è anche cambiato molto il contesto anche geopolitico. Il mio governo che si attivi con forza e vada e chieda e si faccia rispondere. Faremo queste richieste al presidente di turno, scriveremo e aspettereste le risposte. Ci sono delle azioni diplomatiche che si possono fare, insomma, no? No, la Francia ci ha chiesto di fare qualcosa insieme a loro in Mali, ecco, siamo anche noi a dire, ma avremmo un problemino, volete darci retta, eccetera, eccetera. Quello che in questi anni è un po' a voi per primi e è stato evidente a chiunque abbia seguito un po' tutte le vicende di Ustica, è questa grande voglia e bisogno di coprire un segreto inconfessabile che era, esatto, appunto dietro i cieli della notte del giugno del 1980. Se lei dovesse dire qual è stato il momento peggiore rispetto a tutti questi anni e rispetto all'iter giudiziario in cui vi siete sentiti anche più offesi, diciamo, dallo Stato? Stata quando, nell'immediatezza dell'evento, quando noi eravamo a casa a piangere, la cosa la più grave, la più indecente è stato che la mattina dopo, signora mia e ascoltatori tutti, si poteva dire a noi parenti delle vittime e agli italiani tutti quello che era successo. Noi siamo riusciti a ricostruirlo, noi sappiamo, abbiamo in mano un tabulato, ce l'ha avuto in mano il giudice priore, dico tutte cose che stanno scritte nella sentenza d'innanzi del giudice priore, non invento nulla. Sapevamo, potevamo sapere, chi di dovere sapeva quello che era successo quella notte. Poi lentamente si è cercato di raccontare altro, si è cercato di raccontare da parte dell'aeronautica che era cedimento strutturale, si è fatta chiudere l'Italia perché era cedimento strutturale, è fallita una compagnia perché era cedimento strutturale, il giudice della Repubblica, il primo che indagò, ha mandato un avviso al povero Aldo D'Avanzale, capo dell'Italia, presidente dell'Italia, perché aveva sparso notizie tendenziose. L'unica azione della magistratura in quel momento è stata quella di impedire a un libero cittadino di avere raccolto le sue informazioni rispetto alla caduta di quell'aereo, il suo aereo, e essere incriminato per questo. È successo tutto questo perché i militari già nel dicembre dell'80 hanno mandato una lettera al governo e a tutte le forze armate, tutti gli uomini dell'aeronautica, dicendo: ah, in giro si dice che è che missile, ma sappiate che l'unica verità è il cedimento strutturale e quindi non sostenete altro, sono tutte balle e questi giornali, bla bla bla bla. Questa è la storia, la responsabilità è scritta tutta nelle pagine della lettura e nella lettura della sentenza ordinata di Priossi e vince tutto ciò. C'è un capitoletto meraviglioso poi del quale parleremo quando un po' di calma, che si titola riscossioni in carriera. E allora andiamo a leggerlo, chi è scosso chi? C'è un altro capitolo che dice la distruzione delle prove, e allora andiamo a leggerlo e vediamo cosa è successo. Questa è stata la parte, quando io ho avuto la forza di avvicinarmi a questa vicenda, che mi ha terribilmente colpito. Io sono una cittadina italiana, ho sempre osservato e pensato che le regole in uno Stato di diritto si dovevano osservare. Ecco, lì ho visto che nessuno nell'immediatezza dell'evento ha fatto il suo dovere. Non l'ha fatto la magistratura, perché si è lasciata avvintare da due o tre versioni che dei militari andavano a lei raccontando, e non l'hanno fatto i politici, non l'ha fatto il governo del mio paese, non l'hanno fatta i parlamentari, perché hanno fatto interrogazioni, ma si sono presto accontentati delle facili verità che gli aerei, delle tragiche verità che gli aerei cadono, punto e basta. E poi invece finisco, nell'85-86, quando ho cominciato ad andare dal primo giudice, mi ha detto: beh sì, stiamo archiviando. Come stiamo archiviando? Non c'è niente, non c'è nessuno, nulla. Io fino all'85-86 non ho saputo nulla da nessuno. Da nessuno, non sapevo chi erano gli altri parenti, non sapevo chi erano gli altri morti, nulla. E da lì è partito tutto e siamo arrivati fino a questa verità che ormai veramente grida vendetta per gli anni che sono passati, ma a noi dà grande soddisfazione, perché quando degli uomini liberi e delle donne libere combattono dei valori, degli ideali giusti, per dei principi giusti, ci si arriva. Gli altri sono soltanto dei servi, dei menzogneri, e quindi perseguono delle, come dire, delle idee che prima o poi verranno battute. Io lo so, c'era qualcosa di indicibile che doveva succedere quella notte, non è che non me l'hanno detto per il povero aereo di 81 persone di cui a nessuno è mai fregato nulla, capisce? Non me l'hanno detto perché c'era qualcosa di indicibile. E allora, anche dopo 33 anni, se l'ha detto Cossiga, quell'indicibile, cerchiamo di metterlo scritto nero su bianco e chiediamo che chi ha detto e chi per 33 anni ha preferito mentire cominci davvero ad avere la forza morale di rivendicare anche gli errori. La Francia innanzitutto, poi il Belgio e la Libia. Da questi paesi l'Italia può avere risposte, ma c'è qualcuno, anche qui, qualcuno che era in volo in quella notte del 27 giugno del 1980, che potrebbe aggiungere elementi sulla storia del DC-9 Itavia. A ciascuno il suo. Andrés Cinzia, Andrés Luigi, Baiamonte Francesco. È lungo come il tempo passato l'elenco delle vittime del disastro di Ustica, l'abbattimento della DC-9 dell'Itavia il 27 giugno di 33 anni fa. È lunga questa lista penosa di nomi, quanto il groviglio di depistaggi, ostacoli e silenzi che le indagini su quella strage hanno attraversato, senza mai arrivare ad una responsabilità penale per la morte di quelle 81 persone in volo da Bologna a Palermo e finite, come scrisse il giudice Rosario Priore, nel mezzo di uno scenario di guerra. Uno scenario dove l'obiettivo forse era un MiG libico con a bordo Gheddafi, uno scenario a cui ora una sentenza civile della Cassazione, come abbiamo sentito nella prima parte di A ciascuno il suo, ha dato l'avallo definitivo stabilendo il risarcimento dello Stato per le vittime. Un verdetto che è ridaffiato anche alle indagini penali riaperte nel 2007, sulla base sempre di quello che il giudice Priore stabilì 14 anni fa, riuscendo ad entrare negli uffici della NATO. Ma sono ancora molte le risposte che mancano e che solo un'azione politica seria, dice Priore, può sperare di ottenere. La Procura della Repubblica di Roma, sulla base di uno stralcio che feci al termine di quella istruttoria, ha continuato le sue ricerche e le sue indagini, al punto tale che ha inviato commissioni rogatorie a quei paesi di cui erano velivoli militari nel corso di un'esercitazione quella sera in quel luogo, proprio lì sul Tirreno a sud della Corsica. Ricordiamo quali sono i paesi che potrebbero darci delle risposte su che cosa successe quella sera del 27 giugno dell'80. Proprio per effetto di tutto quello che è stato rilevato, principalmente sulla base della testimonianza del colonnello Bozzo, che stava lì a Solenzara in vacanza proprio quella sera e che assisté a queste manovre, a questo continuo decollare e atterrare gli aerei, si è rilevata la presenza di una vera e propria esercitazione militare con aerei sicuramente di diversi paesi, c'erano aerei tedeschi, forse c'erano aerei inglesi, c'erano aerei belgi. Noi abbiamo avuto una risposta allo Stato, io credo, solo dai belgi, i quali hanno detto che su questo fatto esiste un segreto militare. Se lo dice un paese medio, immagini lei quello che possono dire i paesi di gran lunga superiori. Mi stava dicendo che ci sono delle rogatorie alla Francia e poi ci abbiamo delle rogatorie alla Libia. Ovviamente di quelle spedite alla Libia non sappiamo nemmeno chi le ha ricevute, considerato lo stato di confusione in cui versa il paese dopo la primavera araba. Quelle dalla Francia molto probabilmente non avranno una risposta esauriente. Perché lei dice che dalla Francia non avremo risposte? Fino adesso certo non ne abbiamo avute, però sono passati anche 30 anni e sono cambiati anche i contesti internazionali rispetto a quei giorni in cui appunto l'Italia veniva abbattuto. È vero, perché è vero. Oggi la Francia... E questo ci dà un filo di speranza. Disse che il radar di Solenzara, la base di Solenzara, chiudeva alle 5 del pomeriggio, quando poi è stata aperta tutta la notte. Ci disse che i loro radar appunto non funzionavano, ci dissero che le loro portaerei erano in radar. Non so se adesso potrebbero disconoscere queste risposte. Tenga presente che la Francia è un paese, per questo io sono anche in un certo senso scettico, in un paese che ha una struttura monolitica, non è che cambia governo e cambiano le risposte che riguardano lo Stato. Che tipo di responsabilità francesi ci possono essere nell'abbattimento della 19? La Francia non ha mai parlato di tutto quello che è successo nel corso della sua più recente storia. C'è un'abitudine a mantenere i segreti, le responsabilità potrebbero essere non di carattere penale, forse ci sarebbe pure una qualche responsabilità civile, ma dobbiamo fermarci a questo, è una questione di peso dei singoli stati. E l'Italia in questo mi sembra di capire che conta molto poco, se non è riuscita a farsi dare risposte neanche da un amico. No, non è questo il mio giudizio, dipende dagli uomini che sono... L'Italia potrebbe avere la forza con un futuro governo di reclamare queste risposte da un paese amico come la Francia? Sì, amico però che conosce una infinità di segreti che riguardano la nostra storia e che non ce li rivela. La Francia conosce la fonte di coloro che parlarono di un prossimo attentato al Papa. La Francia dispone di persone che scherzano con i nostri segreti e sono quelle persone che ogni tanto ci fanno delle rivelazioni sconvolgenti sulla strage di Ustica. L'unica vera svolta in queste indagini su Ustica ci fu quando lei, con l'appoggio del governo allora Prodi Veltrone, riuscì ad avere delle risposte dalla NATO. Ma noi dovremmo sapere che cosa è successo, cioè se c'è stata un'azione bellica. Noi abbiamo ipotizzato e abbiamo tante prove in questo senso, però se ci disse il paese che disponeva di questi aerei, forse potremmo ricostruire meglio il tutto, anche perché potremmo capire qual era l'operazione che questi determinati governi avevano in mente per quella sera. E in Italia invece, secondo lei, chi è che potrebbe in qualche modo ancora dare informazioni per capire qualcosa in più? Potrebbe darci quelle entità che avvisarono l'aereo VIP 56, quello su cui viaggiava un capo di Stato o una personalità parificata, capo di Stato che viaggiava verso nord e che a un certo punto all'altezza poco della Sicilia, all'altezza di cui fece una conversione, puntò su Malta e poi noi non riuscivamo più a vedere, ma sicuramente ritornò a Tripoli. Questo è un altro mistero su cui molti non tendono a parlare. Quindi a questo punto, secondo lei, è necessario che il futuro governo spenda la propria credibilità internazionale anche in sede europea per pretendere un po' queste risposte? Certo, questa è un'azione di governo. Un'azione di governo, un'azione in un certo senso preparata pure dall'attività dei magistrati. Non sto qui a dire quante volte sono stato alla NATO per avere la trascrizione esatta dei NAS, perché noi avevamo avuto una trascrizione che arrivava soltanto ad una certa profondità queste registrazioni, ma c'era modo di scendere ad ulteriori profondità e vedere quello, le attività che erano state poste in quelle zone, in quell'area dell'abbattimento, della caduta. Noi sappiamo come si muoveva e cosa si muoveva nel cielo di Ustica. Adesso bisogna riconoscere gli aerei che stavano in volo, si dovrebbero dire le nazionalità e poi i singoli paesi dovrebbero dirci che cosa hanno visto e che cosa hanno saputo. I miei colleghi stanno lavorando, sono i giovani colleghi della Procura di Roma e credo che stiano andando avanti. Però bisogna vedere poi che rispondono i governi che saranno interpellati. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare le puntate il sito è radio24.it nella sezione podcast. Se volete farci sapere cosa ne pensate, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure ci trovate anche sul blog Storiacce, mentre su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.